24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Queste misure non si fanno mai perché cane non mangia cane. C'è un problema che i ricchi sono più protetti dei panda. Eccolo il motivo per cui non si fa nulla in Italia, secondo Ferrero. I ricchi sono più protetti dei panda. E questo blocca tutto. Voi pensate magari che sia tutto bloccato perché i saggi sono poco saggi, o perché sono troppi, o perché ci sono oltre 35 saggi, 7 scribi. E poi adesso arriva, attenzione, questa è una novità del giorno. No, è la novità del giorno. No, ma non me la voglio bruciare subito. No, non la voglio bruciare subito. Prima apriamo il Parlamento. Il Parlamento, apriamolo. Buongiorno, benvenuto a tutti. Come sempre. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto il nostro alpino Peter Bescapè in regia e saluto Maurizio Tortorella, che è il vice direttore di Panorama. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Come saluto Vladimir Luxuria, buongiorno, ben ritrovata, come va? Buongiorno, bene, grazie. Abbiamo scoperto neo direttrice artistica del Gay Village di Roma. Sì, quest'anno organizzo il Gay Village a Roma dal 20 giugno. Dal 20 giugno, quindi tra poco. Allora, io lo chiedo a tutti perché non ho capito questa signora che se la prende con la questione della Minetti. E c'è questa frase che mi rimane un po'. Tu, Vladimir Luxuria, hai capito cosa vuol dire quando dice hai preso anche tu i suoi favori, hai goduto dei suoi favori? Di che favori? Tu, Maurizio, avevi già la risposta. Non lo so, non ho capito. Insomma, ti accusa di aver avuto... Che cosa? Qualche liaison. Tu, Vladimir. Uso parole così. Così, sì. Vladimir, tu l'avevi così. Forse, secondo me, hai approfittato della Minetti, ti sei fatto fare una bella pulizia, un'igiene orale. No. Della Minetti, che ti ha fatto aprire la bocca questa volta non in quanto speaker, ma come paziente di uno studio. È igienista dentale, insomma, succede ogni tanto. E vabbè, comunque, allora la questione è questa, me la sono tenuta. Allora, c'erano i 35 saggi, ci sono i 7 scribi, ma adesso attenzione, i farisei. No, sapete cosa arriva? Hanno annunciato, siccome non basta questo, la più grande, mastodontica operazione di referendum sul web mai fatto in Europa tra i cittadini per capire le riforme. Che riforme vogliamo? Ma io non ho capito, ma non bastano tutti quelli che... Ma le facciano! Ci vuole il referendum, parte oggi, scrive il Corriere della Sera, tra 10 giorni partirà il più grande referendum mai fatto in Europa su questa vicenda, su questi temi. Maurizio. Si lasciano contagiare dal virus del grillismo questi, vedi, adesso non lo so, si rivolge alla rete per sapere gli umori del popolo. Evidentemente sì. Maurizio Tortorella, quando ti chiederanno, ti arriverà a casa questa domanda, tu parteciperai a questa consultazione e dirai la riforma più importante da fare, eh? Voi ce ne sono tante. No, vabbè, dinne due, tre. Per quella che è la mia personale inclinazione, è la riforma della giustizia. Della giustizia, ecco. Ma posso dire, posso aggiungere una cosa? Sì. Temo che questa cosa, se è vera, sia l'ennesimo portato negativo, l'ennesimo risultato negativo del grillismo in questo paese. E cioè la politica che ci sta a fare, la democrazia rappresentativa parlamentare, nel momento in cui viene eletto un Parlamento, questo poi a sua volta individua una maggioranza e quindi nomina un governo. Ed è questo che deve agire in rappresentanza del popolo, ma ovviamente sulla base delle idee. È chiaro. No, è chiaro, adesso si consulta su tutto, È ridicolo. Oggi però ho letto questo titolo su Repubblica, Vladimir, per un attimo ho avuto un intenso momento, ho letto partono i saggi, ho detto partono nel senso che iniziano a lavorare. Tu spera che siano andassero. Non lo so, ma no, ma vabbè, Vladimir Luxura, tu parteciperai a questo sondaggio, il più grande mai fatto in Europa su questo tema, si annuncia una cosa in grande. Pensa se sul sondaggio chiedono se gli italiani sono d'accordo sui costi che comunque bisogna sostenere per tutti questi saggi. Ecco, secondo me già una prima risposta potrebbe essere quella. Vabbè, ma non prendono soldi però, Vuole ma insomma, comunque un costo, loro magari non prenderanno dei soldi, ma insomma un costo ci sarà per il lavoro che svolgeranno questi saggi. Insomma, io credo che un sondaggio web risponderei che uno spera nella saggezza di chi è stato destinato a governarci, sì, perché altrimenti sembra che la saggezza deve essere delegata a terzi, no? Cioè gli altri sono saggi e allora invece chi al governo cos'è? Non è saggio, ma comunque una delle riforme potrebbe essere quella elettorale, comunque tra quelle della sì. Comunque l'annuncio di Quagliariello tra 10 giorni contiamo di proporre la più grande consultazione del genere sul web mai fatta in Europa, che verrà fatta in 3 fasi, 2 aperte di facilissimo accesso, quindi potrete partecipare anche voi, Vladimir Luxuria e Maurizio Tortorella, e una chiusa indirizzata all'accademia, agli universitari, agli studi professionali, quindi è una roba anche complicata in 3 fasi in cui coinvolgono prima tutti e poi anche gli accademici che si metteranno, faranno loro, nomineranno un gruppo di accademici deputati a partecipare a questa, immagino sarà così, no Maurizio? Dovranno anche, e poi a quali accademici? Sarà un po' più complicata la cosa. Mi pare una gran stronzata. No, vabbè, insomma, l'editoriale del vice direttore di Panorama. Allora, a proposito di Panorama, oggi abbiamo una copertina che è questa, Vladimir Luxura, sai qual è la copertina oggi di Panorama? Ci sono due ragazzi, lo so, ci sono due ragazzi che si baciano col titolo Nozze gay, questo matrimonio sa da fare. Sei soddisfatta? Bello perché intanto ma la gente pensa ai matrimoni gay in Italia, sinceramente? Intanto mi piace molto il titolo che ha scelto, gli faccio i complimenti a Panorama, perché questo richiamo ai promessi sposi ricorda tutta quella letteratura dell'amore contrastato, quindi tutto lì c'è Renzi e Lucia che non volevano le famiglie, qui abbiamo tanti Renzi con Renzi e tante Lucia con Lucia che invece non vogliono Renzi c'entra sempre, vabbè, no, insomma, andiamo avanti. Plurale di Renzi. Sì, ecco. Ma ormai, voglio dire, non si può rischiare l'isolamento talebano italiano rispetto al resto del mondo occidentale. Credo che ormai bisogna rendersi conto che neanche più gli argomenti del benaltrismo, cioè c'è ben altro a cui pensare, prima era la questione sicurezza, poi è diventata la questione economica, sia qualcosa che ormai debba tenere l'Italia al di fuori dell'Europa, del mondo occidentale, appunto. Cioè, tutti hanno legiferato ormai, davvero tutti. Sì. Cosa aspettiamo? Cioè, è diventata una questione, ci sono tantissime coppie, gente che vive in Italia, gente che paga le tasse al 100%, che vivono insieme e hanno bisogno che lo Stato riconosca queste unioni affettive e che le legalizzi post factum, sì, proprio, cioè prendendo atto del fatto che questa realtà esiste. Ma infatti e che non il punto riconoscerla e mettere la testa sotto il punto di partenza, sotto. No, ma il punto di partenza, mi sembra, Maurizio Tortorella, che avete fatto a Panorama è questo: che la legislazione non arriva, e laddove non arriva la legislazione, che cosa succede? Ci sono sentenze, scelte magari di comuni di fare delle iniziative di diverso tipo, cioè le classiche scorciatoie all'italiana, cioè si trova il modo di legalizzare una cosa che non è legalizzata. Ma è davvero un sentore così anche nel polso anche della popolazione omosessuale, Maurizio, secondo te, quella di avere. Allora, intanto è una battaglia civile che io condivido non pienamente, di più trovo una cosa assurda che non ci siano le unioni civili, né diritti civili per le coppie omosessuali. Diceva giustamente Vladimir Luxuria che l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha questo tipo di legislazione. Su una scala teorica da 0 a 100 l'Italia in questo momento, secondo le organizzazioni internazionali del movimento omosessuale è al 19% ed è uno dei livelli più bassi in Europa. Per dircela, l'Inghilterra è al 77%, la Spagna è al 65%, quindi siamo veramente a livelli quasi russi, insomma. È giusto, è una battaglia sacrosanta ed è vero quello che dicevi, cioè che poi il tema dell'inchiesta di Copertina di Panorama, che in questo momento, proprio per i ritardi della politica, c'è una strategia alternativa molto intelligente, devo dire, e spero efficace, che passa attraverso sentenze di tribunale, sentenze di corte di Cassazione e soprattutto di corte costituzionale che arrivano allo stesso obiettivo. Ma ci arriveremo a questo? Io non lo so. Non possiamo non arrivarci. Vladimir, vedi che mentre parlavi un ascoltatore ci manda il messaggio: ma che si sposa, ma chi se ne frega, non mi pare la cosa più importante. È proprio la classica, c'hanno il cliché nell'SMS, tac, già pronto, questa è la classica risposta, no? Cioè, come chi se ne frega di questo tema, con tutti i problemi che ci sono. Queste sono il me ne frego mi ricorda tempi passati. Io sono per invece l'I care, no? Io mi interesso. Non bisogna essere necessariamente gay per interessarsi di queste questioni, come non bisogna essere necessariamente neri per interessarsi e combattere contro il razzismo. Sono invece questioni molto importanti, perché a chi manda un SMS scrivendo chi se ne frega, io invece rispondo dicendo che io me ne frego sia di una coppia di due gay che vivono insieme da 30 anni e che uno si preoccupa dell'altro, che se viene a mancare non ha neanche il diritto di poter dire una parola anche sulle modalità delle donazioni dell'organo oppure degli organi, oppure sul tipo di cerimonia funebre che deve essere fatta, sull'asse ereditario, su tutte queste cose. Così come me ne frego al contempo del problema della disoccupazione e del lavoro, perché interessarsi dei problemi della gente non significa questo me ne frega e questi altri se ne possono andare a quel paese. Certo che però interessarsi dei problemi dell'ingiustizia in generale. Certo che però è incredibile, con tutti i problemi che comporta il matrimonio, Maurizio. C'è gente che vuole proprio il matrimonio. No, ma è interessato tra gli altri Paolo Poli. Paolo Poli, lo vedo qua che dice: ma vi rendete conto? Cioè, già con tutti i problemi, già il matrimonio è una noia, figurarsi quello gay, dice Paolo Poli. Vabbè, ma è una posizione. Anche la Santanchè ha detto che è un imborghesimento del mondo omosessuale. Io credo che bisogna lasciare libertà di scelta alle persone di sposarsi o meno, etero-omosessuali, di essere o meno borghese. Per tanto tempo ci hanno accusato di essere trasgressivi, degli sporcaccioni. Adesso l'accusa è il contrario, no? Cioè, nessuno si vuole più sposare, voi invece volete sposarvi. Lasciamo libertà alla gente di scegliere in che modo, diciamo così, formalizzare la propria unione. Una battaglia per la libertà. Comunque, la copertina di Panorama è un'inchiesta molto interessante, con tante interviste. 24 mattino. Sì, sono molto incazzata. Sì, ci vorrebbe un forcone di quelli proprio. E succederà molto molto presto. Comunque dica ai quattro fetenti che sono ancora lì a Roma che si parino il culo, perché sono ancora per poco. Ciao grillini, ciao grillini, ciao. Ciao grillini, ciao grillini, ciao. Beppe Grillo, dalle stelle alle stalle. Wow. Ciao Milan. Non sono arrabbiata come dici tu, sono inviperita. Un signore nella tua segreteria preparava i fucili, sono d'accordo anch'io. In sostituzione si potrebbe chiedere ai sindacati se possono fare un part time a Papa Francesco, che andasse un po' lui al governo a dirigere. A lui basterebbe un part time. Caro Milan, la zappa non basta più, ci vuole pure una frusta. Ma i politici se ci danno lo tempo, se a mezz'ora non hanno fatto una quartata di terra, niente pranzo e 10 frustate. E la sera la stessa cosa, se non fanno una quartata, niente cena e 10 frustate. E dire che l'Italia sa giusta. Milan, a parte che lo signor là c'ha ragione, che hai rotto il cazzo con ste minetti, comunque vabbè, la trasmissione tua c'ha meno peso libero. Ascolta, E l'altro giorno sul Corriere della Sera c'era scritto che solo le aziende danno 1.700.000 euro al minuto di tasse allo Stato. Gli ultimi dati Istat dicono che siamo in 25-27 milioni di famiglie in Italia. Ma con l'abaco in una mezz'oretta non ci mettono a posto tutti, poi pensiamo agli altri problemini. O sbaglio? Ti auguro la buona giornata con questo canto. Se tu m'accogli, padre buono, prima che venga sera. Se tu Maurizio Tortorella, aiutami, perché devo mettermi a cantare. No, non lo so, Vladimir Luxuria, se vuoi aiutarci anche tu, sei molto grato, ti siamo molto grati. No, ma non l'ho ancora sentita questa proposta di candidare il Papa alla guida del Paese. Ah, vabbè, sì, sì. Oppure c'è uno, uno risolve questo... con il Papa, uno con l'abaco. L'abaco forse è la soluzione di tutto, basterebbe l'abaco. In realtà il decreto del fare, il decreto del fare, il decreto del fare, che a me sta già un po' sulle balle, diciamo, come quando dicono il decreto del fare, che in realtà è il decreto del dire. Ma se non riesco neanche a scongiurare l'aumento dell'IVA, tanto per dire che è tra... Quindi il decreto del fare cosa? Il fare cosa? Sapete quanto è arrivata la pressione fiscale per i commercianti? Il 68%, questo nel 2012. Vladimir Luxuria, ieri c'era una rivolta quasi, i commercianti con Zanonato che diceva vorrei non aumentare l'IVA, ma non posso, come si fa? Insomma, sull'aumento dell'IVA, insomma, da questo punto di vista davvero sono dalla parte dei contestatori, perché... È chiaro che se aumenti l'IVA lo Stato secondo me incasserà di meno, perché è proprio, non credo che sia una buona formula per la crescita dell'economia italiana. Il principio è chiaro: più aumenti le tasse, più la gente evade in Italia, perché culturalmente siamo un po' così. E poi più le aumenti e più uno dice beh adesso non ce la faccio più. Adesso è successo con la benzina, no? Quell'aumento della benzina deciso dal governo Monti, l'incasso fiscale è stato inferiore. Ma è così, insomma, comunque non è che è colpa di Zanonato, arriva adesso, cioè, però si è messo lì davanti con la faccia ovviamente ai commercianti, che erano infuriati, inviperiti, e lui a dire vorrei scongiurare questo aumento dell'IVA, ma non c'è. Se fanno una bella indagine sul web chiedendo alla gente siete d'accordo con l'aumento dell'IVA, ecco la più grande mastodontica indagine europea sul web, siete d'accordo, potrebbe essere questa, Maurizio Tortorella, diamo l'idea al ministro Quagliariello, che tra 10 giorni lancerà questa più grande cosa. Vabbè, io devo chiudere con questa vicenda che proviene da Roma, ma allora lo vediamo nelle grandi città la questione quando si ci ferma i semafori, la rabbia, ma si può morire ammazzati per una lite al semaforo? Questo è il dato di fatto, Maurizio. A Roma, una lite, hanno un vigilante, ha sparato, ha tirato fuori la pistola, ha ucciso uno, sono arrivato il 118, hanno aggredito il 118, ma dove siamo finiti? È brillante, infatti io ho adottato il comportamento, prego, sì, lei... nei confronti di chiunque. Sì, certo, cioè anch'io sì, ho adottato la lendia, sì, mi sei passato sopra sul cofano della macchina, fai pure, vai avanti, perché qua non sai più chi ha un coltello, una pistola, questo è il dato di fatto. Vladimir, ti è mai successo? No, però insomma veramente anche ieri andando in giro per Roma, ma credo che sia comunque una caratteristica delle grandi città in generale, coi primi caldi soprattutto, devo dire, la gente va proprio fuori di testa, ma si avverte a volte quella violenza che quasi paura che se fai qualcosa mentre non scatti subito al verde, sì. C'è qualcuno dietro che si ferma e ti viene a rompere il finestrino della macchina. È chiaro, un senso diffuso della violenza e della frustrazione che secondo me è aggravata anche un po' da tutta questa questione della crisi economica, eccetera eccetera, che insomma sì, la gente è pronta a scattare e quindi diciamo tutti quelli che fomentano l'odio, la violenza, insomma dovrebbero un po' pensarci, perché è veramente come gettare benzina sul fuoco. Comunque, se volete leggete la copertina, panorama che è in copertina, nozze gay, questo matrimonio sta da fare. Io ringrazio Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Vladimir Luxuria, neo direttrice artistica al Gay Village dal 20 giugno, giusto? 20 giugno, tra pochissimo. Grazie a Vladimir Luxuria, tempo di Giornale Radio, ci troviamo dopo le 7.

sul messaggero esecuzione a Roma per una lite di viabilità. Davvero arriviamo anche a questo. Ma voglio chiudere con un campione del quale si dice sempre: ma sarà più forte di Maradona o sarà meno forte di Maradona? Lionel Messi. Ma a giudicare da quello che ha fatto col fisco, forse è come Maradona. Pare, frode da 4 milioni, neanche Messi paga le imposte. Che messa così il titolo del Corriere della Sera, dice: ma ragazzi, se può dribblare le imposte Lionel Messi, dribbliamole tutti. No, è chiaro, non è un invito, ma voglio dire, avrebbe evaso il fisco per 4 milioni di euro. Più forte o meno forte di Maradona? Come Maradona, vedete. 24 mattino. Quando sono le 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, è vero, c'è la crisi del PDL, questo è innegabile, dopo le ultime amministrative c'è la vittoria del PD alle amministrative, legata anche però al tema dell'astensionismo. Ma parliamoci chiaro, la domanda che da alcuni giorni circola e tiene banco in politica, almeno sui giornali, è questa: ma il Movimento 5 Stelle si è sgonfiato come un soufflé nel giro di 3 mesi? È finito l'effetto tsunami che ha portato un terzo degli italiani a votare le politiche del movimento di Beppe Grillo? Tanto che addirittura vedete le polemiche, c'è una senatrice, la senatrice Gambaro, che addirittura dice che il problema è proprio lui, è proprio Beppe Grillo, con i suoi toni, i suoi posti, il suo modo di fare comizi anche con violenze verbali. C'è qualcuno che dice: beh, è lei che se ne deve andare. Grillo dice: se ne vada lei. Grillo stesso ieri, secondo Repubblica, ha telefonato a una riunione dei senatori del Movimento 5 Stelle e si è lasciato andare a una considerazione sconsolata, cioè: ragazzi, mi sono rotto, alcuni erano niente, sono entrati in Parlamento, ora mi attaccano, mi viene voglia di mollare. E infatti, tra l'altro, raccontano i giornali, parte per l'Australia tra qualche giorno. Beppe Grillo va in Australia, va a fare una tournée, tra l'altro lì vive uno dei suoi figli. Ma insomma, è davvero finito, o come dice un senatore del Movimento 5 Stelle intervistato ieri al Messaggero, siamo destinati ad autodistruggerci? Il Movimento 5 Stelle, parliamo di questo, lo facciamo con il professor Paolo Becchi, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato professor Becchi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi scuso se dovrò andare via un po' prima, sì, per la trasmissione, ma non si preoccupi, perché ho un universitario. Certo, vabbè, è chiaro, docente universitario, sei iscritto anche da poco al Movimento 5 Stelle. Sì. Saluto il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Buongiorno, buongiorno direttore. Eccoci qua. Allora, Becchi, intanto è finito, si è sgonfiato, il soufflé è un po' venuto male e i nodi vengono al pettine? No, io direi di no. Era chiaro che uno tsunami è uno tsunami, non è che continua in eterno. E poi io do una lettura un po' diversa da quella che è stata data della tornata elettorale attuale, cioè di quella delle elezioni amministrative. Sa quello che dice Repubblica? Repubblica ha detto di me che io volevo, ineggiavo la lotta armata, adesso ci troviamo addirittura virgolettate, intercettazioni telefoniche, sì, di Beppe Grillo. Ma insomma, ma no, le intercettazioni, sa come sono i giornalisti, chiamano e qualcuno, sì, dirà e ci ha detto questo. Sono veramente ridicoli, sono veramente ridicoli. Sì, no, ridicoli. Io non credo, è una crisi di crescita. Sai, è come quando uno vive in una bella casa, una nuova casa, una nuova abitazione, sì, perfettamente costruita, con dei mobili bellissimi, ma insomma ogni tanto bisogna togliere anche un po' di polvere, no? E la polvere chi è? La senatrice Gambaro è polvere, per esempio? Le polveri sono appunto, cioè, persone che probabilmente, diciamo così, non si identificano con quello che è il movimento. Si tratta solo di una piccola pulizia, di una piccola ristrutturazione, ma l'ambiente è sano, l'ambiente è luminoso, è una bellissima casa. Non è bello però come immagine, cioè come togliere un po' di polvere la senatrice Gambaro. Ma insomma, è chiaro che ogni tanto bisogna fare anche un po' di pulizia nel belle case, no? Sì, certo, ma senta un po', ma esiste la possibilità di dire qualcosa contro Beppe? Cioè dire, essere in disaccordo, Beppe Grillo ha sbagliato, cioè che male c'è in dire una cosa del genere? È un giudizio? Io lo dico tutti i giorni, praticamente, ma al momento non mi ha ancora cacciato nessuno. Non è la discussione interna, è apertissima, e quello che trovo stucchevole e veramente irritante è: tu partecipi a una riunione del tuo gruppo, non dici niente e mezz'ora dopo vai a sparare quello che ha sparato. Via, la parola sparare via, no, vai No, a dire. basta, l'ho già detta troppe volte. Appunto, vai a dire quelle cose sulla stampa, tenendo presente, insomma, la stampa come la stampa. Sì, vabbè. Quindi lei dice è solo un po' di polvere, non ci sono questi 30, 40, 50, ogni giorno crescono sui giornali, 60, 70 pronti. Alla fine potremmo dire ne resterà soltanto uno alla fine, sì. E vedremo, ce ne resterà soltanto uno, può darsi, non lo so, non credo, io credo che ci sia sicuro. E guardi, e l'operazione di scouting iniziata da Bersani, che è un esperto in queste cose, e continuata da Civati, che sta portando i suoi frutti avvelenati. Ah, il nemico è Civati, colui che è dato come quello che sta cercando di avvicinare per portare da una parte all'altra. Veramente il nemico non è mai una persona, il nemico semmai è un nemico politico in questo caso. Certamente il nemico politico è il partito democratico. Fa il famoso scouting. Allora, Alessandro Sallusti, questa è la lettura di Becchi, cioè c'è un po' di polvere, bisogna mandarla via da una casa che rimane comunque linda, pulita, molto aperta, trasparente, in cui si dibatte, si può dibattere, non c'è problema. Sallusti, che ne pensa di questa lettura del Movimento 5 Stelle di Becchi? No, io credo che più che chiedersi se è finito, se non è finito, il problema è che non è mai iniziato 5 Stelle, è una cosa che ancora non ha preso nessuna forma, perché è un partito che si è reso indisponibile a qualsiasi alleanza politica, non ha per inesperienza la capacità di imporre in Parlamento delle scelte, dei temi, dei dibattiti, no? Finora è esistito soltanto in quanto un'associazione privata di Grillo, molto litigiosa, a volte pittoresca, ma non è mai iniziato, non è che si è sgonfiato, non si può sgonfiare una cosa che non inizia, che non c'è. Ma non è mai iniziato perché? Cioè hanno preso i voti così, a caso, perché la gente... Beh, evidentemente sì, io sto parlando di un fatto politico, cioè se parliamo delle elezioni, tutti abbiamo detto ammazza, cioè esiste il movimento di Grillo, esiste, è grosso, ecco, ma il giorno dopo ci si è accorti che è stato che non era così, cioè che cosa ha fatto in questi 4 mesi il movimento di Grillo se non litigare furiosamente ogni giorno tra di loro contro i giornalisti, cioè la polemica per cui si sono più distinti è insultare ogni giorno un giornalista, cosa peraltro anche nobile per certi versi, ma credo assolutamente inutile e rilevante dal punto di vista politico. Sì, il problema è che loro dicono in realtà, ieri su Italia Oggi, l'altro ieri, c'era una bella lettura di Marco Bertoncini che dice, in realtà quelli del Movimento 5 Stelle fanno, cioè studiano, si preparano emendamenti, disegni di legge, il problema è che tutto questo, loro dicono, non emerge sui giornali e si rendono conto dunque di una sorta di inutilità di tutto quello che fanno quotidianamente, perché Sallusti effettivamente loro dicono, ma andate a vedere sui nostri profili, noi depositiamo disegni di legge, siamo lì a studiare documenti, alle 10 di sera, però questa cosa a chi se ne frega? Questo è No, ma non gliene frega niente a nessuno, perché il problema non è che loro debbano studiare, non siamo l'università, cioè c'è un concetto anche molto infantile, molto anche tenero per certi versi della politica, ma noi studiamo, noi siamo, ma chi se ne frega che studiate? Se io volessi studiare andrei all'università, non in Parlamento. In Parlamento io ho bisogno che tu mi risolvi il mio problema. O che tu ti rendi disponibile ad allearti con qualcuno per risolvere il mio problema, visto che tu non hai i numeri per risolvermelo da solo. Siccome tutto questo, questa è politica, siccome a questo sono indisponibili, possono anche studiare tutta la vita, a che serve? La mia domanda è a che cosa serve? E infatti, Becchi, un po' il problema è questo, cioè io ci credo che i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle siano lì a studiarsi tutte le procedure parlamentari, i progetti di legge, stanno in commissione, ligi, votano, eccetera, ma questo, cioè voglio dire, concretamente a cosa porta? Al fatto che la gente pensa non hanno combinato niente politicamente parlando, sono lì da 3 mesi e sono inglobati nel sistema anche loro. No, un momento, cioè qui bisogna chiarire una cosa, Per come sono andate le vicende dopo la tornata elettorale politica, se di questo che adesso parliamo e non delle elezioni amministrative, delle politiche, sì. Il Movimento 5 Stelle non è riuscito per la scelta di Napolitano, perché il problema fondamentale è che la scelta di Napolitano, che aveva già in mente precedentemente, era il governo delle larghe intese. Il governo delle larghe intese si è realizzato, abbiamo avuto una cosa che diciamo così, certamente è legale, ma perché la Costituzione non lo vieta, ma i padri costituenti sicuramente non la volevano. Abbiamo voluto, c'è stata la rielezione di Napolitano e poi è successo tutto quello che è successo. Cioè, secondo lei è legale a metà, è legale a metà, è legale a metà. Certamente che è legale a metà perché, ripeto, se si vanno a vedere i lavori parlamentari si vede chiaramente che c'era nella prima versione il fatto che poteva essere soltanto 7 anni e poi è stato tolto dicendo ma è normale, è chiaro che più di 7 anni non potranno essere. D'altra parte nella Costituzione si parla anche del nuovo capo dello Stato, quindi non si ci immagina che sia quello vecchio il nuovo capo dello Stato. Però non è bello che un professore di Capuzzi. Lasciamo perdere queste cose. No, dice Becchi, perché aspetti Becchi, siccome non riesco a finire il ragionamento. Becchi, però aspetti. In un sistema parlamentare, serio, c'è il ruolo della maggioranza e il ruolo dell'opposizione. Dopo tutto quello che è successo, il Movimento 5 Stelle, non il partito salutisti, il Movimento 5 Stelle è finito all'opposizione. Bene, devono essere garantiti i diritti dell'opposizione. Noi siamo nel nostro paese al momento nella tirannia di quella che Tocqueville chiamava la tirannia della maggioranza. Ma perché? Che diritti, hanno negati? Dittatura della maggioranza. Ma che diritti sono negati alla opposizione adesso? Qualsiasi tipo di diritto è negato all'opposizione. Ci hanno messo 2 mesi per stabilire le commissioni di garanzia permanenti, ci hanno messo 2 mesi e poi alla fine il Copasir è andato all'opposizione con tutta la Lega. E voi avete preso la vigilanza della RAI. L'opposizione nel Parlamento che rappresenta quasi 9 milioni di italiani, perché le elezioni sono state queste, entrambe le commissioni permanenti dovevano andare a Movimento. Dove volevate anche il Copasir? Perché Sallusti? Però si fermi un attimo, Becchi, perché Sallusti dice che professor Becchi? Non è bello che un professore dica bugie, perché non è che Napolitano ha tagliato fuori il Movimento 5 Stelle da una possibile maggioranza, perché Bersani per primo ha offerto un'alleanza politica al Movimento 5 Stelle, è il Movimento 5 Stelle che l'ha rifiutata. Se Grillo accettava l'alleanza con Bersani, Napolitano non poteva fare assolutamente nulla, perché Bersani andava con una maggioranza parlamentare della Napolitano e Napolitano non poteva. Che tra l'altro il direttore secondo me l'ha rifiutata coerentemente, cioè il Movimento Molto 5 Stelle ha sempre detto non facciamo alleanze, non è che un giorno dopo poteva sconfessarsi. Esattamente, io condivido in pieno, ma non è che qualcuno ha fatto... c'è stato un complotto contro il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si è reso indisponibile a qualsiasi tipo di alleanza e quindi se ti rendi disponibile ad alleanze stai in minoranza, e se stai in minoranza è ovvio che non puoi prendere tutto quello che vorresti prendere, prendi quello che la Costituzione e le leggi ti concedono di prendere. Dopodiché guardi professore che non c'è nessun complotto e non c'è nessuna... anche perché i grillini non hanno rinunciato a nulla, diciamo così, dei privilegi che la legge concede alle minoranze, compresi gli stipendi, compresi i viaggi gratis, compresi i pasti gratis. Beh, però questo non è vero, Sallusti, hanno restituito, tengono 5.000 euro e mettono... Il movimento, coerentemente con quello che aveva detto, ha rifiutato il finanziamento pubblico e può farlo, ma i singoli grillini non risulta al momento che abbiano rifiutato nulla. Ma perché non c'è il meccanismo, cioè dicono per ora li mettiamo in un fondo... C'è sempre una spiegazione al perché, ma sta di fatto che è così. Al momento è così. Allora, comunque, tra 5 minuti ripartiamo dopo la pubblicità. La domanda di fatto è questa, la quale voglio ripartire col professor Becchi, è che credo, si percepisce da molte persone, anche amici, anche persone che sento, che dicono io ho votato il Movimento 5 Stelle, ma adesso non lo voterei più. Guardi, professore, che molti pensano questa cosa. Allora, si può far finta di niente, si può dire non è vero, si può dire che sono persone pagate, persone che dicono falsità, ma temo per il Movimento 5 Stelle che molte persone la pensino così. Allora, di fronte a questo ci vuole una domanda: perché in 3 mesi alcune o tante persone sono arrivate a questa convinzione? Tra poco ripartiamo. 24 mattino. Allora, 800 24 00 24, il Movimento 5 Stelle si sta sgonfiando dopo soli 3 mesi oppure no? Con Paolo Becchi, con Alessandro Sallusti, vorrei sentire Domenico dalla provincia di Latina, ci ha chiamato. Domenico, buongiorno. Buongiorno signor Milan. Dica. Buongiorno, senta, io sono un agricoltore, per la specifica un pastore. Sì. Io sono particolarmente indignato e incavolato, come tutti nella mia zona. Cioè, non si sopporta più questa situazione. La mia, per quanto riguarda i grillini, era un segnale forte, fortissimo, che la gente è fortemente incavolata. Era giusto, è naturale che non avesse un seguito. Quindi lei, mi scusi Domenico, l'Italia è fortemente incavolata, maggiormente il mondo agricolo. Sì. Si hanno disturbato. Domenico, mi sente? Domenico, io sono un pastore. Niente. Mi sente, io Domenico? Mi scusi, azienda, Domenico. Domenico, lei mi sente? Sì. Lei ha votato il Movimento 5 Stelle? No, io non ho votato 5 Stelle. Quindi io sono sincero. Però volevo dire, io qualche anno fa volevo fare, io mungo le pecore, ho il mio prodotto, dopo 2 giorni il mio prodotto è sulle tavole degli italiani, non me l'hanno fatto fare, una burocrazia tutta italiana, signor Vila, non me l'hanno fatto fare, le mie figlie sono tutte a infoltire, le file delle persone disoccupate. No, ma sulla burocrazia italiana abbiamo fatto una trasmissione proprio ieri, se non sbaglio, l'altro ieri. Però lei dice, Domenico, era un voto di protesta. Allora, Paolo Becchi, le chiedo questo. Lei lo nota le persione, visto che le sente, che alcuni che dicono io ho votato il Movimento 5 Stelle, ma adesso non lo rivoterei più, o sono invenzioni dei giornali? Ma guardi, io vorrei rispondere con un esempio per far capire che cosa sta succedendo. Ieri c'è stata una relazione alla Camera del Ministro degli Esteri, del Sottosegretario agli Esteri, non ricordo adesso, insomma, comunque sul caso dell'Afghanistan. Ministro Mauro, alla difesa forse. Esatto, allora, della difesa, sì, mi scusi. Sì. Della difesa, grazie. La relazione riguardava il fatto che un nostro soldato purtroppo è morto. E la notizia che oggi è apparsa su tutti gli organi di informazione, alla televisione, stamattina, prima pagina, cioè, l'aula era vuota. Vede, ora è chiaro che quello che sta seguendo il programma dice l'aula era vuota, ma come? Ci sono almeno non so quanti grillini, almeno quelli dovevano esserci, no? Ma allora sono uguali agli altri, non vanno neanche a queste cose, anche loro sono a studiare, mentre gli altri saranno a farsi fottere, e questi qui studieranno, ma cosa se ne frega se studiano, vadano all'università. E questo è il messaggio che traspare, e Sallusti dice così perché lo scrive anche lui sul giornale. Nessuno però dice che invece gli unici presenti erano un Movimento 5 Stelle, ma erano questo, e hanno parlato, sì, e hanno però fatto Sallusti è questo che dice, questo è meritorio, cioè è tra i compiti essere lì in aula. Mica sono i compiti che si fanno all'asilo o all'università, loro erano presenti, hanno preso una posizione, hanno fatto una mozione affinché l'Italia esca da queste missioni all'estero, eccetera. Quindi non è che non fanno. No, ma è chiaro, non esce, il problema è giornalisti. Sallusti, qua il problema è i giornalisti. C'è da dire, effettivamente non vedo grandi giornali che sottolineano quello che il Movimento 5 Stelle fa in Parlamento, se fa qualcosa. Torniamo sempre al problema di prima, Sallusti. Bisognava scrivere c'erano solo quelli del Movimento 5 Stelle ieri in aula? Ma probabilmente sì, questo sicuramente è un dato di merito dei deputati del 5 Stelle, ma vede, i giornali non sono le gazzette dei partiti, guardi che nessun giornale fa il resoconto di quello che i parlamentari studiano, fanno o propongono, anche perché ci vorrebbero paginate e paginate, poi alla fine per raccontare cose che non è che hanno un grande effetto pratico sulla gente. I grillini si impongono sulla stampa per loro scelta, attraverso i loro insulti, andate a farsi fottere, cioè domani il professore finirà sui giornali per andarsi a farsi fottere, non per altre cose più o meno intelligenti che ha detto, cioè sono i grillini che scelgono il canale, il codice mediatico con cui apparire. È ovvio che quando si rifiutano di rispondere alle domande dei giornalisti, poi non possono pretendere che i giornalisti facciano i loro addetti stampa. Sì. Rispondi alle domande dei giornalisti e finirai sui giornali in base a dei criteri giusti o sbagliati che sono quelli che interessano ai giornali. Comunque, per esempio, mi scrive nel frattempo un collega stimato del secolo XIX, ma non dico il nome, dice: oh, io ho votato al Movimento 5 Stelle, non lo voterò mai più. Cioè, Becchi, lei rifugge da questa domanda, ma che siano tanti o pochi, ci sono ma alcune persone che pensano così. Lei pensa che sia colpa del fatto che non vengono veicolate ciò che fate, insomma colpa del sistema informativo, e come la mettiamo, come fate a arginare queste persone che non vi voterebbero più? Ma io penso, come ho scritto che insomma come è anche apparso anche oggi, io credo, sul blog di Grillo, che il problema è che insomma il movimento ha una voce, Grillo ce l'ha messa tutta questa voce in tutti i comizi per l'Italia, eccetera. Sì. Ha mosso qualcosa, ora tocca a quei milioni di italiani che l'hanno votato riconfermargli la fiducia. Se comincia a mancare questa fiducia, il movimento ce l'ha messa tutta. Io credo che ci può essere adesso nel periodo immediatamente successivo alla vittoria elettorale c'era un clima euforico. Si leggevano i giornali dove protagonisti della politica, della cultura, del cinema erano diventati tutti pentastellati. Adesso non lo è più nessuno. Io sono io cerco di fare un'analisi fredda. Probabilmente quel clima di euforia era eccessiva. Sì. Secondo me è anche altrettanto eccessivo questo clima di delusione che si vuole. Sì, certo, ma certo, si ragiona un po' così. Ma secondo lei Grillo si è davvero stancato, come racconta, e se ne va in Australia anche per staccarsi un po'? Ma guardi, lui andrà in Australia, io sono chiamato ad andare a Berlino, perché a Berlino c'è un forte gruppo del Movimento 5 Stelle, e quindi voglio dire, io non so cosa vado a fare in Australia. Una tournée, così racconta. Ma probabilmente avrà dei parenti, non lo so. Sì, ha suo figlio. Lì, ecco, ma... è libero di andare dove vuole e direi dopo l'impegno, lo sforzo, vede, quello che io rimprovero alla senatrice, se mi posso permettere, sì, è questo, la polvere, fronte alla polvere, no? Di fronte allo sforzo eroico che ha compiuto quest'uomo, prima con lo tsunami, che ha 65 anni o quanti ce n'ha, prima con lo tsunami, poi con una campagna elettorale che era amministrativa tutta sulle sue spalle, io dico questo: un minimo di gratitudine, un minimo di rispetto, questo è mancato. Quindi fuori dalle palle. Questo... No, io non dico fuori dalle palle, questo l'ha detto lei, io ho detto semplicemente mi sembra che sia mancato proprio quel senso di gratitudine. Attribuire la colpa dell'insuccesso elettorale al blog di Grillo e diciamo ai suoi commenti mi sembra... che sono sempre uguali, sì, da sempre, sì, sì. Mi sembra la cosa più sbagliata. Sbagliata, di possiamo fare tutte le... È giusto fare delle analisi, capire perché il risultato è stato quello che è stato, ma dire semplicemente che si è perso perché Grillo parla troppo e dovrebbe parlare di meno, diciamo che mi sembra veramente un'analisi politica del tutto inadeguata, sì, sì. E comunque segno di grande ingratitudine. Va bene, io mi fermo qui, grazie a Paolo Becchi. Mi posso salutare? Sì, no, ma noi ci fermiamo anche perché vi ringrazio, ci sono le informazioni sul traffico, ringrazio sia il professor Paolo Becchi, ringrazio Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e andiamo alle informazioni sul traffico e poi forse ci sarà un sindaco di Marsala, chissà, pochi minuti fa ha detto che c'era, adesso non risponde, se no ci sono gli ascoltatori, insomma intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Allora, 8:47 minuti per introdurre l'ospite con cui concludiamo 24 Latino. Si può dire, se faccio questo salto, no, non solo alcuni del Movimento 5 Stelle, anche il professor Becchi ce l'ha con i giornalisti, ce l'ha forse anche con alcuni giornalisti, non lo so, il sindaco di Marsala, che voglio salutare, Giulia Adamo, sindaco, buongiorno. Lei ce l'ha con i giornalisti in generale? Assolutamente no, ormai faccio politica da tanti anni, tanti, e non ho mai avuto contrasti con la stampa, sono una liberale, sono sostenitrice della libertà, non solo di critica, ma perfino di insulto. Ecco, ah, di insulto. Però, sindaco, ci deve spiegare questo. Ecco, l'articolo allora, che è uscito. Mi scusi, aspetti, che lo spiego agli ascoltatori. L'articolo che è uscito anche due giorni fa sul Sole 24 Ore, firma Nino Amadore. A Marsala fate un'iniziativa molto bella, che è il Festival del giornalismo d'inchiesta, è stata terza edizione a maggio, eccetera. E tutti dicono: ma come? Anche Nino Amadore, mentre fate questa straordinaria iniziativa, lei ha diciamo, lei e tutta la municipalità, la giunta di Marsala, avete denunciato una testata online, marsala.it, chiedendo 50.000 euro al giornalista Di Girolamo. Non al giornalista Di Girolamo. Alla testata è un'altra testata, due testate. E come mai, sindaco? Le quali ovviamente non hanno minimamente partecipato al Festival del giornalismo d'inchiesta. Abbiamo avuto ospiti Serena Dandini, abbiamo avuto ospiti Garimberti, abbiamo avuto Capossela, perché abbiamo parlato di tanti temi, per esempio la difesa del Mediterraneo, con Greenpeace facciamo una battaglia che andrà avanti. Ho capito, sindaco, e quindi sulla perforazioni. Allora, queste due testate, mentre per esempio si discuteva di tutte queste cose che noi riteniamo importanti e vogliamo discutere, attaccavano, e questo è lecito, naturalmente, dicendo che noi perdiamo tempo, cioè tutte le critiche per noi vanno bene. Il problema è che queste testate, oltre ad attaccare, questo sì, che sera fa parte della libertà di stampa, poi dicono tutta una serie di menzogne, diffamazione. Faccio un esempio facile. Si può dire che un lavoro, per esempio la ristrutturazione di una piazza che abbiamo fatto, è bruttissimo, ci va bene, ma se si dice che è illegale, è legittimo, che noi compiamo atti illegittimi, allora non è più libertà di stampa. Mi sentite diffamati? Diffamazione. Però mi scusi, sindaco, lei ha votato, è la prima volta, pare, nella storia, come giunta, avete votato e vi siete costituiti, diciamo, come enti che mi sentite diffamati. L'intera comunità di Marsala, per cui l'avvocato lo pagheranno i cittadini di Marsala. Ma vale, l'avvocato possiamo farlo pure noi, non c'è dubbio che anch'io faccio la mia querela personale al costo però simbolico di un euro, perché francamente il mio problema non è di essere attaccata dalla stampa, il problema è che queste due testate hanno lo stesso nome della nostra città. Allora, in questo momento la città di Marsala sta facendo un'azione di promozione fortissima. Noi siamo, per esempio, superato una selezione europea, per cui Marsala è la capitale europea del vino. Noi quest'anno rappresentiamo il vino in Europa. E quindi che fanno? Ledono l'immagine di Marsala? Sì, perché chi si collega con Marsala, il sito di Marsala, scopre che qui si compiono costantemente atti illeciti e illegittimi, chiaramente può essere scoraggiato dal venire a Marsala. Da città. Però mi scusi, sindaco, lei addirittura, cioè, voglio dire, dite tutta la città, siccome voi l'avete fatto come elemento di giunta, come decisione di giunta, è come se tutta la città di Marsala Il sindaco e la giunta hanno il dovere di rappresentare la città, è un sindaco che rappresenta ogni cittadino, rappresentano l'amministrazione. Questo è un compito che noi, quando decidiamo di fare qualcosa, lo facciamo a nome della città. Non tutti sono d'accordo con quello che facciamo, questo mi sembra perfino ovvio. Il problema è stabilire, ecco qual è secondo me importante, stabilire che una cosa è la libertà di stampa, una cosa è la libertà di critica, ma se si dice che una giunta imbroglia, trasgredisce la legge, fa una serie, allora questo non è permesso, credo, a nessuno, e a quel punto non si offende. Certo, lei lo può, lei infatti lo può, l'amministrazione, no, si offende l'amministrazione. Io non sono in questo momento attaccata come cittadino, come persona, ma come ente pubblico. Io sono un pubblico ufficiale, posso ricordare. Quindi l'ente pubblico sa che la persona che è stata querelata ha detto si tratta di una sorta di bullismo istituzionale. Questo lo può dire perché rientra nella sua. Allora, questo lo può dire, secondo me, perché è una critica pesante e feroce. Ma se dice che io trasgredisco la legge e faccio su atti amministrativi azioni scorrette, io a quel punto devo chiedermi se questa è libertà di stampa. Io pongo un quesito: se è libertà di stampa o se invece è un'altra cosa. E allora io approfitto per ricordare a chi ci ascolta che, per esempio, dal 4 al 7 luglio ci sarà il Marsala Wine, un'occasione per la nostra città a degustare il nostro storico. Non solo di Marsala, della Sicilia, dell'Italia, e sarà un viaggio, ho capito, ma non ci sarà non sarà mica Marsala Ita a dire che voi, cioè, a buttare fango sul buon nome di Marsala. Ci sta aiutando a fare un po' di pubblicità poi alla fine, ci avreste invitato altrimenti. Senta, ma l'hanno accusata, però mi scusi, Nino Amadore, per esempio, l'ha accusata di essere Dr. Jekyll quando fa il Festival del giornalismo e Mr. Hyde quando invece si accanisce. L'ho trovato anche simpatico l'articolo, era molto spiacevole, perché poi diceva come mai una persona che ha fama di essere liberale è così. Il problema è che bisogna distinguere, secondo me credo che sia importante, dalla libertà di informazione e di critica feroce alle menzogne. Questo non è più, non ha nulla a che vedere col giornalismo, né di inchiesta né di altro tipo di giornalismo. E poi una questione su cui piacerebbe anche riflettere è che non è che chi fa politica entra in una banda armata, per cui tutte le volte che si attacca un politico è un'operazione meravigliosa, perché se noi non ritorniamo ad avere rispetto e fiducia per la politica, il sistema democratico non regge. Allora io da anni faccio il mio lavoro con onore, quando sono sempre stata eletta e sostenuta. A proposito che parla di onore, c'è anche Gian Antonio Stella che per esempio se l'è presa e dice che lei, io effettivamente l'ho introdotta come Giulia Adamo, ma avrei dovuto dire onorevole Giulia Adamo. Guardi, io perché lei si firma così. Io ho risposto a Gian Antonio Stella che da un po' di tempo proprio io ci tengo al titolo di onorevole Adamo, perché l'ho svolto con orgoglio e con onore. Ho realizzato progetti, sono stata sempre la prima eletta nel mio territorio. Lei pensi che ho rinunciato? Io sono stata sempre la prima eletta di tutti i partiti provincia di Trapani. Questa volta ho deciso di non ricandidarmi alla regione, di non andare come mi proponevano a Roma, perché ho pensato che la mia città aveva bisogno di un'amministrazione. La città di Marsala era una crisi, stava attraversando un periodo di crisi. Ho deciso di non fare appunto il deputato e ho deciso di fare il sindaco. Ricordiamo che onorevole però, perché quelli che sono consiglieri regionali in tutta Italia sono onorevoli in Sicilia. Siccome i primi anni non lo savo mai, ora visto che c'è questo attacco così pesante alla politica, ritengo che invece chi fa politica con orgoglio, con onore, devo poterlo ribadire. Dire, onorevole. Esattamente, quindi in questo caso non mi dà fastidio. E quindi l'ha messo così come firma. Onorevole Giulia Adamo, onorevole. Io la devo fermare perché sennò sforo. La ringrazio per essere stata con noi, il sindaco di Marsala. Ricordate tutti al vino, al Festival del Vino di Marsala che sarà a luglio. Vi ringrazio, ci fermiamo qui, è tempo di dare la linea al giornale radio, ci ritroviamo alle 6.30 di domani mattina. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.